Mi guardi dall'alto, sembra mi sorridi, aspetti il tuo momento. Quando decidi di scendere qui e farti abbracciare da chi per tanto ti ha saputo aspettare. Hai già un nome, che se non lo sai avrai amore, ma lo scoprirai. Il mondo è un posto duro, ti farò da guida, ti starò accanto per tutta la vita. Sarò il tuo eroe, almeno da piccolo mi vedrai grande. E tu scricciolo, a volte mi odierai, ma fa parte del gioco. Crescere è un ostacolo, non da poco. Salite e discese si alternano sempre, impara a capire chi mente. Questa è una lezione che ti salva la vita, è solo la prima di una lista infinita. Arriverai come un uragano, sarai dolce come un giro di piano. La mia voglia di diventare padre, la mia paura di non esserne capace, spazzerei via in un solo istante ogni pensiero rimasto vagante. Colmerai un vuoto che ho dentro, che ogni giorno sta crescendo. Arriverai come un uragano, sarai dolce come un giro di piano. La mia voglia di diventare padre, la mia paura di non esserne capace, spazzerei via in un solo istante ogni pensiero rimasto vagante. Colmerai un vuoto che ho dentro, che ogni giorno sta crescendo. Riderai tanto e certo piangerai per amore, ti dispererai, troverai amici per i giorni felici, ma anche nemici che lasciano cicatrici. Sarai tutto quello che deciderai, ti sosterrò sempre ovunque andrai. Sbaglierai sì, ma con la tua di testa gioirai alla tua festa. Io resto qui ad aspettare quel giorno, quando finalmente ti avrò intorno. Con la tua gioia di piccola creatura, il nostro miracolo della natura, un segno d'amore in mezzo a noi, mi rispecchio negli occhi tuoi. Non si può spiegare cosa provo veramente mentre ti fisso ogni istante. Arriverai come un uragano, sarai dolce come un giro di piano. La mia voglia di diventare padre, la mia paura di non essere capace, spazzerai via in un solo istante ogni pensiero rimasto vagante. Colmerai un vuoto che ho dentro, che ogni giorno sta crescendo. Arriverai come un uragano, sarai dolce come un giro di piano. La mia voglia di diventare padre, la mia paura di non esserne capace, spazzerai via in un solo istante ogni pensiero rimasto vagante. Colmerai un vuoto che ho dentro, che ogni giorno sta crescendo.